Bello! Chi c'è in questo canale? Attenzione, Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Chi c'è? Chi c'è? Venga avanti. Attenzione Antonello, ci sei? Antonello? Ciao Marie, che facendo c'è? Ho dormito. Ciao Marie. Ho dormito. Dormito c'è, Gio Marie. Ho dormito. Ma che facendo c'è? Ma che facendo c'è? Ma l'ho detto che eri il torneo e adesso sei rientrato. Sto tu morto, Suni. Quando sei rientrato? Oi. E te, dai, dai. E allora? Si mi ha dato il torneo, capito? Un vicino. C'è chi può, non c'è nessuno. E boh, l'ho acceso adesso io. Ho fatto accendendo se ci sta a te. Ehi, io non c'è, mi aveva mandato un messaggio, boh. Chi? Ehi, io. Ah, boh. Tutti morti sono, ho tutti in giro. No, ehi, io, mi ha mandato un messaggio, boh, adesso è dalla radio. L'ho visto adesso. E invece Flippero sta costruendo stufe, prototici di stufe pellet, economici, senza fumo. Ehi, già l'ha mandata anche a me adesso. Già l'ho vista già. Ma gli ho detto, falli i manecci, le ruotelline se lo devi spostare, boh, se no così... Se lo vuoi portare a bruci le mani. Ma devi inventare a fare le maniglie. Le maniglie per poterlo spostare, oppure un carrellino, boh, non so, però vuole il fisso, se no se la si butta e poi buca l'appartamento. Anche i piedi, in modo che non si rovesci, sennò brucia tutto, si corica. E allora, questo poi buca l'appartamento, devi chiamare pompieri. Ma già rifretta, già rifretta, Sì, lui bisogna chiamarlo Archimede, il bello Archimede. Mi è volato la bocca, il tiro di segno, Archimede, due. Mia mamma mi ha mandato un messaggio, mi ha fatto vedere la stufa. Anche a me mi ha fatto vedere la rimanenza, rimane carbone, la puoi usare anche come carbone, come concime nelle piante. Dai, dai, lasciamolo fare. Vediamo un po' questo prefetto, quanto lo dai e vende. Su compra e vende a Giuvicchio, viso, due walkie talkie, 35 euro. So che di l'antennino sarà 10 centimetri e due pomellini c'ha. Mi ha scritto 3 km di raggio. E non ce le fai, non le fai niente, no, grazie. Non finai, cazzo. Cosa le fai, non le fai niente. Non ce li ho. Me l'abbiamo giù di Lucca, ce li ho conservati. 9 9. Ma le ho usate un po', parlavo con un ragazzino qua di Sant'Orsola e poi ne ha giubicciato. È vero, però tutti tutti alla massa che ritocca. Questo solo usa in massa, l'altro sono dritto di scatto, rega le bocca, boh. Anche il mio, l'altro, il PMR l'ho conservato, ho lasciato questo e quello con l'alimentatore, e boh, l'altro l'ho conservato. Ma è facile, casa puoi usare solo quello con l'alimentatore, è portatile, lo puoi usare magari quando fai fuori, quando sei in campagna, va bene, ma in casa se ne fai, no? Ce l'hai per casa, attacchi quello dell'alimentatore, va benissimo, perché in casa va bene quello. E allora? Viene a fare il buco, ma io in casa tratto uno e l'altro, tanto che non esce mai, dunque uso anche il portatile, così mi posso spostare. Ma perché se due ore che chiacchieriamo la sera, cosa ne fai? Non li fai niente, no? Ha già cattassato tutto, ha un remolino, boh, mi lascio una 27 in massa, boh. E io c'ho solo pure, quello nuovo, della 27, è sempre lo zodiaco che secondo me la base si tratta, però mi piace bruci la metà di me, tanto tratto il suo rubino. Ciao Mari! Ciao Lu, è me. Come si fa? Con il catto sì. Ma che fai? Sì, io cosa fai? Non puoi fare niente. Ho da ieri che mi sento male. Non mito, c'ho tuo marito, mito. Ah, dormito sì. Fai bene. Ogni tanto bisogna muoversi però, Grazie a Rosi che si ne ha fotti. Per carità. So che fate 3 volte in bagno, 10 minuti fa l'ultima volta, 3 volte. E oggi ho cucinato una bella barella di spezzatine passate. Buonanotte. Pure Maria l'ha fatto, però ha messo anche gli olivi in mezzo. Buono, Buono, buono. Cos'è? Gli olivi ci dovevo mettere, fagioli freschi. Che ci sono al pozzetto, li avevo sgranati e li ho conservati in vari sacchi. Però mi sono dimenticato, era già, oramai avevo già messo le patate, quelli li dovevo mettere da prima, perché sono freschi, capito? E allora... Stavi dicendo qualcosa, Gio Mari? Ah? Stavi dicendo qualcosa? Già ho capito. Già ho capito, è tutto buono, l'importante è che ci sia l'appetito, lui. Vado per l'appetito, è tutto buono, dai. Oggi se non sa di cosa mangiamo, oggi ha fatto zuppa di pesce, ha fatto oggi, però a pranzo, stanotte non lo mangio, se è rimasto un po' me lo mangio domani, a pranzo. Stanotte a digiuno. Oggi dovevo incontrarmi con Bacchisio, mi doveva dare un monitor. Forse mi sono dimenticato io, magari, ora è impegnato. Attacco l'altro che questo si è morto. Luca! Eia! Attacco l'altro, ma riaccarri che invece era a capo. Metto l'altro, da. Quello con l'alimentatore. E io se faccio passaggi corti già mi dura la batteria, ma se sto con passaggi lunghi non dura molto. Ma sembrava carico, invece sei carregato tu. Allora io una volta che smetto di parlare lo spengo e lo metto a caricare e rimane tutta la notte caricando. E poi l'indomani me lo spegne ed è carico. Ma io non l'ho messo perché mi sembrava ce n'è la batteria, invece evidentemente non finiva. Mi assento tu un attimo. Attacco l'altro, va, aspetta. Bacchisio, ci sei, Bacchisio. prendere l'acqua è andato, non c'è. E beh, ma chi? Ma stamattina possiamo essere dimenticato, no? O non c'eri tu? Sì, io, va bene. Buonasera a tutti, belli e brutti. No, stavo lavorando, e dunque stavo ascoltando il mio, se l'ha chiamato più risposto. Quando vuoi, non mi dà fastidio, dov'è? Sì, domani se ce la faccio, dai, faccio uno squillo a quel numero là. Vengo, me lo prendo, dai. Va benissimo, che l'amico tuo non si è visto, eh. Tanto che appena si liberava ti chiamava, gli ho mandato anche il numero nel messaggio. Sì, aspettiamo domani, vediamo strada. Andrà bene, dai, sono affaccendato. Ci sentiamo poi. Quel Rick per mia, ciao Luca, ciao anche agli altri che ci sono. Ciao Rick, che non è un mio amico, il padre è un amico, dai. Va bene, Bacchi, a dopo, ciao. E beh, a chi sei? Luca! Ehi, grazie. Dai, mi accendo una ventina di minuti. Vabbè, già acceso qua, non è entrato nessuno. Sì, Bacchi è entrato, ma sta facendo cosa? Gio Maria si è assentato, dai, ci sentiamo dopo, grazie. Che ha acceso questo? Graziano. Sì. Ma cos'è, la 500 a Portorito? La Volkswagen. Ah, oh. E il maggiolino. Ah, tettina, e dove l'hai cavata, chissà? Ma da Dominale. Aspetta, ya, scusi tanto di fretta lunaca. Mi ha mandato anche una telefonata della Vodafone. Mi sembra di sì, guarda a vedere. Aspetta, guardo qua. Il Xavier. Qua non c'è, qua non c'è. No, su WhatsApp. Non ci sei tu. Esci a vedere, come mai? Ahi, aspetta, guarda. Mica te l'ho mandata una telefonata. Ascoltala. Ma io non ho... Quella non l'ho ricevuta però, eh. Ma ce l'ho qua scritto. Te, Azita, Dorabaita, Gian Maria, ecco. Guarda che è una telefonata solo, mi. Aspetta, io guardo. Ehi, guarda, su WhatsApp, Non ce n'è? Sì, Pilagino, cavate la torre a mandare. Prova a torre a mandarla, boh. Ah, adesso ne ho due qua segnate, arrivatoti. Ancora no. Ancora no, mi sono arrivate con lei due foto, mi sono arrivate solo poco fa, ma la telefonata non è arrivata sullo scafo. Sì, guarda, te l'ho mandata anche adesso, sai qua mi risulta Gian Maria. Aspetta, torna a guardare, mi fischia quando arriva, capito? Guarda, te l'ho mandato due, c'erano due segnate qua. Beh, è già arrivata. Ascoltala. Ah? Ascoltala cosa dice quella di volta fa, quella là. Ehi, chiama lì. Luca, ti è arrivata quella telefonata della Vodafone? Sì, grazie, c'è poco vedo sta cosa. Mi l'hanno mandata sola, me l'hanno mandata un'altra, ma non te la mando, tu non vuoi. No, se porno no. Questa aiuta per la protesta dei pazzuri. Ho capito. Chiamando. No, ni. Solo sì. No, è vicino a me. Ah? È vicino a me. Tu ricordati, a questa è sempre vicino a me. Allora. Forse ho capito già qual è. Quella che c'è la zizia, ma le zizia grosse, quella, eh. Salugni, e li bruciate, brrrra. È vero. No, quella lì te l'ho mandata l'altra volta, quella non è niente, questa è migliore, là. L'ho mandata a Flipper, alle poi l'ha mollato un travaglio della stufa. Ah, cosa sto facendo? Quello è un ghiglio. sicuramente ha cessato di continuare quello che stava facendo la Carmorella. Allora, esce qui. Cosa avevi? Una motosega, una scrivania. Poi cosa c'è? Ah, due walkie-talkie, li vuoi, 35 euro. No, tu cosa hai visto? Io mi sono subito, 12 euro l'una. Sono coppia walkie-talkie, 35 euro. C'hanno il gommino 10 centimetri e due pomellini c'hanno. Raggio di azione 3 km, buone. Però qui dice ricezione UHF, distanza 3 km, 17 canali. Sì, così poco, 3 km. Ed è ricezione UHF, 17 canali già. Mi mare sembra la Giomaria, Giomaria ti serve a te. Chi sta vendendo? Questo tipo Alessandro Tortora, che va a parenti di Gomma, Zazzari, di Zazzari. E Sciavì, se completo le... sì, sì. Ma Graziano, come è vero? Mario, io rinuncio a te se riprende Graziano. Ce l'ho io. Ah, Giovanni, io ho rinunciato a te. Vabbè. Succedono anche queste cose, lui. Scusa, dove vai? Giovanni. Ah? Ha detto, se l'ha ascoltato con la chiamata. Già l'ho svista. A te c'è la ripulso, chissà signora, è stata la voda, po. Ebbene, la risposta è giusta, no? Sì, già. Ecco, ce n'è di roba, là, grazie, lì, su Marche. Ce n'è. Di tutto, tu scrivi in alto quello che ti serve, trovi dai telefoni, macchine, moto, fucili, pistole, mitra, cosa, bazooka, carro, dove? Sì, dove cerchi le cose tu, su Market? Su Market? No, Wishy, quello lì. No, tu, quel tipo che stava prendendo walkie talkie, su Market. Ah, su Market, no, non ci ho fatto caso davvero, a dire su HIV, su Market. No, vediamo. Che? Beh, abbiamo messo informazioni del venditore, vedi profilo, vediamo. Alessandro Tortora. Deve essere parente di Colomba. C'è Wukituki, la bisava. Bilancia, una bilancia professionale, c'ha 40 euro. Fuggia, allora, posiziona il venditore, fuggia, bilancia digitale, batteria, eccetera, eccetera. Certo che prendono un tutto lì. L'unica cosa che non ci sono baracchini. Vabbè, comunque ho fatto una bella giornata, Giovanni, visto oggi. Ma Giovanni non c'è più, grazie, ha abbandonato, ciao. Lui, avanza di bugi bugi, anda e torna e anda. Ma che c'è se la vendi? Passa al forno. Al forno? Ma domenica. No, io sto scartafogliando internet, compro e vendo. Un bel di mondezza, va. Lucio Maria prende la pasta al forno. La domenica, vero Gio Mari? Ebbè, Gianni Mari! Non ha gana, non viene più gana. Buon avviso, spezzatino, non so qui i canuti, ma ne ammiro o no. E tu cosa buona mangiare tu? Ho detto grazie, aspetta a Dio con le patate, che Dio lì veda come questa a me, in mezzo a me, buonissimo. E poi fa avete a ribisare, farò quelle fresche. Già sono buone. No. Ma è buono anche con le olive, ma io qui ci metto i fagioli, tipo alla Bud Spencer. Ho mangiato crosse, polizze di cose, zappette di cose, di cosce di farfalla. Su, cosa mi era rimasta una diezina da rimane, se la lampada non l'ha voluto nessuno. E allora i gatti non c'erano lì sotto e c'è la giurampata, i giubbaetti. A chi non veniva i gatti? Erano in giro, una era vicino alla cura, l'altra sera già sta tutta la filmata sullo dramma. Siccome quando vedo il bongo, si fa fare un gano da ciuttino che vengono, che si mangia tutto. Chi prima passa fa di Strauss. Ma il suo cane ha già visto, pure si muove un becco, si mangia un becco buono. E passava le cani se lo mangiavano, poi non ne ho più messo. Sono i gatti a quest'altra parte, da casa di mamma, dicendo, un bel di gatti, un bel. Aspetta, ogni tanto li buttiamo gli avanzi del pollo. Adesso iniziano mi, grazie, a paralizzare il caldo, entrano nel calore, la notte fanno un casino nero. Qui l'anno scorso un macello a variare a parrendici. E infatti da qui sono uscito a pizzo due gattini marroncini e uno nero. Solo di quello marroncino ne è rimasto uno e quello nero. L'altro marroncino è sparito. No, sicuramente sono entrato dentro il motore della macchina. Caglio, fa caldissi e l'avrà macciullato quando ne buffo in moto con la cinghia di distribuzione. E a chi venne una che sa franieta, mia manna, che va se la pizzicata a un fianco e a una zampa, infatti zuppa, la giuica va tutta ancora magnata. Ma sono più in che. Bello, c'è anche il caldo. Allora, che si dice che verrà freddo, io la pagavo, come ti vedi a negare la macchina? Che si parcheggiava, subito si andava e si entrava sotto al motore. E praticamente, chissà, a Mazzani di chi giù, Madonna, aveva punto in moto, sarà partito subito e l'ha pizzicata, l'ha fatto in tempo a fuggire. Cosa, grazie? Ehi, Paoletta sta preparando gli asparagi. Ecco, preparo la panna. Asparagi. Asparagi che vendono quelli surgelati. Sono buoni, mi sono grossi. Non sono grossi grossi. Qua per migliorino sono, da. Sono belli saporiti quelli lì. Ma che la pasta puoi fare con quelli? Ma non sono mai come quelli, vabbè, ma sono buoni lo stesso. Ma quelli delle Rospin sono, quelli grossi. Sono buoni, Luca, a me mi piacciono, c'hanno il sapore, non sono, perché siccome le prendono anche questi, però questi sono grossi, no, questi già vanno bene, c'hanno proprio il sapore. L'altro giorno li ho comprati freschi. Però questi surgelati sono più saporiti, boh. Già le compra adesso, già sono buoni. Già eccolo. Allora, ma non riesci lì a me, compare. Sono buoni, un po' puro sudato. Ci metto due occhi di bue. Vabbè, io li ho presi un po', li ho fatti con Marina la domenica, però ancora non sono usciti. Appena escono, mi metto in marcia, vado e me li faccio un po', un bel po'. Poi me li cucino, gli altri li metto in freezer, li taglio direttamente, così quando ne ho voglia non faccio altro che levarli dal freezer e li metto a cucinare. Sempre con quella maniera, panna a pancetta e via. Già lo so, anche io faccio così, sono buoni. Poi sono belli esauriti, ti fa pure piacere mangiarla, perché c'è proprio il sapore, il gusto, capito? A me piace un bella fritta, un bel, ma so, quando fai la pipì fa un po' di puzza. Ieri te l'ho mandata quella foto degli punti, tutte quelle rapine che hanno fatto alle punti, lui. Eia. Luca, dal letto ci sei caduto. No, stavo leggendo una cronaca, travolta da un'auto, sbalzata a 15 metri di distanza, donna di 47 anni muore sul colpo, a Cagliari. A Cagliari quasi mi ha detto, ma no, ti stavo dicendo, ieri mi sembra te l'ho mandato quell'articolo di quelle rapine che hanno fatto alle punte, al tabacchino, alla farmacia, al negozio alimentare. Il tabacchino, l'edicola, il bar, si vede che c'è il corpo in terra coperto dal lenzuolo bianco. Ma cosa stava attraversando? Allora, la macchina l'ha presa in pieno. Che all'inizio non contava, chissà, chi l'ha cazzeggiato. Guarda, te l'ho mandato su WhatsApp, grazie. Su WhatsApp te l'ho mandato, leggi. Ma ti sta una smart là, l'hai visto? Sono pure. Un giocattolino, l'ha fatto fare il tubo. Cosa, grazie? Quella macchina che l'ha investita è una smart. Cazzo, da lui era buon penne, chissà. Quindi si mette una fattavura. Sì, come razza. Chi sa quanti da camminare? Fa fare un volo di 15 metri. E la pompenne, chissà. Anche a Samassi, tragedia sul lavoro, macellaio di 40 anni. Infilza col coltello e muore da qua. Oggi l'ho sentito a mezzogiorno. Dove? A Samassi. Ah, Samassi. Vabbè. Meglio tardi sempre, grazie. Purtroppo venne ognati di tutti rimani. Allora, la statistica al televisore degli omicidi giornalieri sono di solo di donne una di 2 e 3 o 2 o 3 femmine, una santa di immagino. Vabbè, cosa vuoi qua, purtroppo siamo tutti passati, ma dico, per amare mica gli sono assenti i femmini, io la via accattendo subito un colpevole all'aria morto subito e le carbone in carina subito a pezzi la mattessi cosa tu conserva da quattro pozzi a te delinquente non rubuccio varia lo so varia le bocca a me lo governo lo sai i gabbi che l'avevi fatto di là e impiccarli a dimostrativo. Avevi visto che un baglietto lì nella città, la fantasia da Rosalbito, ma avevi pensato, non una, no, 10 volte prima di fare una cosa, e pure la cappura, a chi mi aveva tagliato le braccia. Vabbè, se vuoi fare, purtroppo. Aveva fatto un buon voglio, l'aveva fatto io se nessuno ne voleva fare, avevi visto un baglietto lì nella città, un poco di macchine. E ma con questi che avevi visto in carriera, chi c'è poco ma sicuro. Lo so. Purtroppo mettono sempre a capolietta a comandare da Italia, che se manda in reggia, per carità. Ciao Mari! Luca, io chiudo là. Tanto Gianni Maria sarà mangiando e ridendo la faccia nostra. Battigio sarà andato con questo baracchino o cos'è da prendi, nessuno si sente, l'uomo cavallo non si sente, pure, chi ci non vedrà mai, vabbè. A domani, Lu. Sì, ciao, grazie, buona cena. Ciao anche a Paoletta, buona cena. Anche da parte di Marina, ciao. Sì, ha ricambiato il tutto, ciao, ciao. Ci sentiamo, fai la bravo. Sono tutti presediti. Ciao, Mari, Mari. Ciao a tutti e due, buona cena. Ciao, Mari. Ehi. Che vedi? Sono le 5. Niente, ora mi sto guardando il televisore. Io mi sto cucinando. Cinemmo. E alla boiata mi ha mai il televisore o burro. Io mi ho fatto anche il brodo per domani. A cena abbiamo avanti di pranzo. Così vai a mangiare pronto, Mari. Eia, noi spezzatino oggi, E anche noi oggi spezzatino, piatto. Sì, noi pure, non va a avanzare pure domani, ma... È un po' per cena, certo, per domani brodo. Un po' con una vaia rimania che io avevo, mio figlio avevo gli spaghetti a rabottarlo, cos'hai? Chi c'è da giù? L'altra mia figliola da Giussi, e io mi sto occupando che si sparaci, roba leggera. E poi c'è lo spezzatino. E poi c'è lo spezzatino, no, da tutto fatto. Ciao Luca. Ciao. Ciao, buonanotte e buona cena. Via, ciao, buonanotte, ciao ciao. Bye bye.